Chi è? Chi è? Sì. Chi è? Chi è? Avanti, chi è? Chi è il fischio? Chi è? Chi è? Avanti, fischio. Ehi, non stai uscendo. Non stai uscendo. Non stai uscendo. La trombetta ce l'hai? Suona con quella adesso. Avanti, chi è? Avanti, chi è? Mettetela dove dico io, quella campanella. A sorre due. A sorre due, campanella. Chi è? Chi è? Chi è? Cos'è, tu sì? Eia! Dove sì? Dove sono? Indovina, indovinello. A casa sì. No, negativo, qua alla bretella sono. Alla senti la campanella, Giovanni. Giovanni, che fai cena c'è? Non mi tocci, Giovanni. Chi è, chi è? Non si è dormito ancora lui. Che fai cena c'è, Giovanni? Sì, sempre facendo, sempre facendo. Ma non mi tocci. Se sto facendo, sto dormito. Di che c'è Giuseppe Leoncino lì, la bretella. Furgoncino. Il naso. Lucchetria. Beh, tutto bene. Ti godi. Ti godi a te. Uscia a bocco. Lucrezia. Tu sì che te la fotti, sempre a trance, sì, vero? Dove sei? E tu dove sei? A casa? È vero che sei sempre a trance, vero? A trance? No, non tranciamo niente, no. Tranciamo male ripieno, male e forage. Pompone mi l'ha detto, che siete sempre a trance. Tu male. Ehi, amici, Mari, vero? Tu. No, vi stavo ascoltando che ero un po' disatto, parlando con la 50. Cosa c'è? Sì, dillo che Pompone ieri è entrato in frequenza, ha detto che sono sempre a trans, Giuseppe Pompone. Ciao, sai, Pompone, vabbè. Gio Mari, lasciamo perdere. A trans, altro che trans, cazzo, esci. Per carità, siamo nella equivale, nella merda, altro che trans. Dice che l'ho preso la lavorare adesso, a Plattabona, con la sabbia. A sparare balle di forage. A con la sabbia di ciclopia va a travagliare. Avvio. Oi, per carità. E beh, lui, è lo chef, non sei svegliato ancora. Vabbè, anche oggi c'è freddo. Adesso lo vediamo un po' domani, se... aspetto una risposta, me va la lumacca. Domani faccio giornata bella. Domani mattina vuoi che ha bagnato, Gio Mari? Ciao, la bascita. Lavorando stacchi con Luca? No, ragazzi. Perché non l'ho sentito né ieri né oggi. Pensavo che stavate lavorando. Visto, ha fatto giornata bella stamattina. Era un freddo. Due ore mi ha fatto, guardate. Sono andato a fare una visita stamattina. Più venti, con ogni barriera d'eva. La raccolta era tutta allagata. Ma non solo lì. Ma anche lì alla Usciane. Sono andato con un'amica a fare un... Non è compere. Lui, mi ha passato da Deva. Ci voleva lo stacco comunque. Ha fatto veramente bene. Adesso sta a crescere l'erba. E fra 15 giorni andiamo a tagliare di nuovo l'erba. Siamo in partenza. Sì. Giusto, dove sei? di fronte a Don Calvino, alla chiesa di Don Calvino qua, alla Pretella. Non ti sento più, c'è uno di segnale, ma la radio è... la radio sembra che fra le nuvole. Ma non mi senti? Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso sì. Ho detto che sono qua alla Bretella, da Don Calvino alla chiesa, hai capito? Che ho accompagnato la vecchietta alla chiesa, hai capito? Ah, ecco, dunque arrivi più bene magari, segnale adesso è 3-4, la radio già è buona comunque. A Luca era bene, se più vicino a lui. A Luca non lo so dove, da che parte è della Telolce, non lo so. Sì, a me mi arriva bene. Siamo vicini, ma molto vicini. Ma tu abiti dove c'è il campo sportivo, Luca? Più su. Più su, ho capito. Ti aspetto 10 minuti, dai. Io sono all'ascolto, dai, di Aremago qua. Anda Bex. Andate a lavorare, andate. E tu vai a zappare. Dammi a lavorare, ho bifrusto. Ciao Leoncino, ciao Luca, ciao Gianni Maria. Ciao, grazie, buonasera. Tutto a posto? E cosa hai mandicato oggi? Tutto a tratti ti sento, Leoncino. Luca, tu bene lo sei. A voglia. Io lo sento tutto a tratti. A tratti mi senti, grazie. A tratti, disturbato. Sono fermo, io sono in macchina, grazie. Adesso questo passaggio ti ho copiato bene. Sono dietro casa tua, Già lo so, qua. Adesso mi sta arrivando bene. Perché ci avevo il portatile distante, dai. Ogni tanto l'appoggio, hai capito, dunque è per quello che mi senti a tratti. Ehi, adesso vai bene però. Luca! E cosa hai fatto? Niente. Nulla. Mi sono lavato, sbarbato e sono di nuovo in pigiamato. Hai fatto bene. E tu? Niente, stavo cercando la plafoniera della palagio che c'è in cucina. Mi sembra che ce l'ha già rimuovita e non l'ho trovata. Mi sono stufato e non la sto cercando adesso. Non mi ricordo dove ce l'ho messa. Piccata. Sì, perché ne lo voglio levare questo e me lo devo piazzare. Un lampadario in cucina che ho preso lì vicino al città mercato. Ma tu lo senti a Leoncino? Sì, adesso sì, prima lo sentivo a tratti, adesso lo sento meglio. Sto sempre qua, E adesso dove sei? Sto sempre fermo qua, fermo di fronte alla chiesa di Don Calvino. Tutto tratteggiato ti ho sentito. È capito, grazie. Adesso sei uscito, dimmi. Ho detto, sono sempre fermo qua di fronte alla chiesa di Don Calvino. Già ti sento bene adesso. Lì c'è Torre, Torre Squallo. Io non ho sentito Torre Squallo. Deve essere che ho fatto confusione con gli squali. Ci sarà adesso, ma abita lì proprio lì dietro. Quelle palazzine a mattoni rosse. Ho capito. Se vedi ci sono, c'è l'antenna sua, si vede, però dall'altra parte della strada, da dove sei tu non lo so se vede. No, negativo, non la vedo. Sono dove sono i palazzi rossi, dai, quelle le mattonelle rosse, hai capito? Lui è lì. Vabbè, dai. Già sono qua, rimango in ascolto, dai. Riprendi Luca. Grazie, tu la stai facendo. Naturalmente la stavo facendo. Stavo cercando quella plafoniera, non mi ricordo dove cavolo ce l'ho messa. Ho guardato il salone. e non ce n'è, sotto il divano, perché quelle di divano a letto nel contenitore non ce n'è, sono lampadine e altre cose. Dentro il mobile del soggiorno non ce n'è, in cucina non la gatto, non ce n'è neanche qui, non riesco a ricordarmi dove cavo c'è un saccata. Non è molto grande, cosa di busso lì, sarà un 20 cm per 20, Ho capito, cosa sei tu? In qualche consulto c'era di busca, ma non tagliassi, e non riesce a mettermi, ne ho guardato così, però, non avrai sci a pizzo. È vero, quando sei con una cosa non la gatto mai, quando non ti sei, ti ragazzi in mezzo ai bisi. Perché se quello non lo levo, lo devo smontare e conservarlo tutto completo, mica tirare muro senza la blaffonera. Capito, il vetro. L'avevo levato il vetro perché ci ho messo la lampadina più grande e con la boccia non ci sta. Con la boccia ci sta la lampadina più piccola, però facciamo garuti a minori. Ella è meglio quella là. Quale? Quella che ha dato. Quello è il vetro, diciamo, praticamente, dove tappi la lampadina, no? Capito? Però per poter mettere la lampadina più grande, l'ho dovuto levare il vetro e attaccarsi la lampadina così. Adesso stamattina ci ho messo una lampadina a disco volante rotonda, però non ci sta lo stesso. Ma quando io non lo stacco, poi lo conservo, perché c'è anche le pale, quello lì è a ventola, e non deve rimuni completo, arrattilo a pezzi ci si la rimuni. Devo metterci la plafoniera sua, no? Ah, beh, certo. Il vetro, capito, ci sono tre vitine, lo incassi e avviti le vitine, leggere, leggere. Però per poter mettere la lampadina che c'è, l'ho dovuto levare perché non ci sta, non ci passa la lampadina del rente su un prezzo. E vabbè, mai te la piazzi. Ascolta un attimo il telefono. Leoncino, a pregare sei andato. A pregare? No, a pregare gli pregano gli altri, non io. Io con le chiese non è che vado molto d'accordo. Allora sei andato a tirare la coda a Don Gavino. Mi sa che non c'è Don Gavino, ce n'è un altro. Lo so, ma ho accompagnato la vecchia, capito? Dunque, con questa storia del Mese Mariano, cazzo qua. Non è che voglio fracassimare nessuno, però cazzo, alla fine cazzo no. Me ne scende di aver capito che cosa, no? Sei uscito tutto tratteggiato, non l'ho compreso nulla. Ho detto che io con la chiesa non vado molto d'accordo. E non facevi il chirichetto più da picco. Chirichetto io? E non ne ho mai fatto io chirichetto. Lo saranno. Antonello me l'aveva detto, un pugno. Mai fatto ne ho chirichetto io. Forse qualcuno che mi assomigliava si è confuso. Me l'aveva detto Antonello Pompugno che faceva il chirichetto lì alla chiesa al monte. No, mai fatto la vita mia. Allora era embriaco quando mi ha detto. Forse era embriaco vero. E che fino a fatto oggi sentito là? Sì, era a casa sua stamattina e stava facendo commissioni e dunque poi stasera non l'ho sentito. E neanche io oggi l'ho sentito. Ma sarò un parente. Perché è sempre impegnato con il fratello, ho capito, grazie. Già lo so che c'ha da fare col fratello, Vabbè dai, rimango in ascolto, dai, già sono qua io. Va bene. Bobo. E beh, bello bello se chi si taglia la goccia, non do io. Ehi, sei arrivato stamattina, ti piace? Stamattina ti è arrivato. E allora? Oh, è quello dove l'hai preso, da Amazon. No. Altri euro. Ah! Altri euro, da continente. Ah, è già la giuridica agrino. Mica, a Luca stamattina me l'ha chiesto. Oh, allora viene 60, 69 euro, uguale identica a quello. Ho capito. Uguale identica a quello, viene 69 euro. Capito? Ma dove però? Da Swissi. Oh, strano, da 32. Ehi! Da Swissi viene, stamattina me l'ha chiesto Luca e gliel'ho mandato. Cosa così, se c'è te lo mando, aspetta, se c'è ancora. E prova a mandare, me lo dà. Se ce l'ho ancora, ehi. E vabbè, vedi un po'. E beh, grazie. Ah, Mina, te l'ho mandata quella foto del cespugliatore, sì. Ah, sì, il video, sì, l'ho visto, Viaggia, eh. E vabbè, pensavo costasse di meno. Come di meno? Cazzo, c'è la squatera che non me lo ricordo. Ah, 69, mi sembra. Di 11 di spedizione, mi pare ieri. Non lo so. Adesso non me lo trovo, era per mandarla a Gio Maria. Non riesco a trovarlo. Stavo guardando. Ehi, quel cespugliatore dei Swissi, non riesco a trovarlo, a mandarlo a Gian Maria, quello di 69 più 11 di spedizione, in 10 giorni ti arriva, spedizione espressa. Cioè l'ordine oggi cos'è? Mercoledì, ti arrivi all'altro mercoledì. L'ho fatto. Cosa è nascosto in macchina, Gian Maria? Se la sinta, no, è di qua Gian Maria. Gian Maria non riesco a trovarlo. La ditta qual è? Swissi. Luca, mi sembra che ce l'ha. Luca! Allora guardi tu e glielo mandi tu, quello che sta vendendo Swissi. Il decespugliatore. Uguale a quello che c'ha Gian Maria con Manubio. Ah, ho capito, aspetta, lo devo cercare, mi sa che l'ho cancellato. Ehi, ma guarda su Swissi, e glielo mando io, non vorrei dirci, ragazzo. Comunque, Gian Mario, uguale identico a quello, cioè bianco, giallo, arancione, con il manubio così. Io devo vedere prima, no? Lo devo vedere prima. E poi avere anche quanto è la cilindrata. Perché c'è da 23, c'è da 30, c'è da 32, c'è da 50, da 52. E ce ne sono vari tipi, capito? Così che... Sempre con manubrio, capito? Perché io... Ma tre, capito. Adesso voglio vedere quello che mi stai dicendo tu, che costa così poco. Boh, strano è. Forse da 23 quello che è quello lì. No, è di più di 23. Io infatti adesso a fine mese me ne devo comprare un altro. Però me lo compro uguale a quello che ho già preso. Quello con manubrio, grazie. Perché sono molto comodo, lavori più bene tutto. con due mani, lavori bene, non pigli lo sforzo, lo fai lo sforzo come quando cioè come quello che hai preso, invece rubri la più. Vabbè, però già c'è la cinghia tra collo che la puoi mettere a V e già travaglia vero ma stessi. Ah no, non lo voglio prendere l'inverso, lo voglio prendere uguale, capito? Guarda che se in due dici la fatta tutta, mi migliora. Ti ho mandato anche il video, adesso quando riscendiamo gli do un'altra passata che l'ha accorciata quasi a zero. E li torna a passare e la base brucia a raso terra. Cioè in due giorni se l'ha fatta. E siamo parlati brutaggio, mi usava della domenica. Mi si abbasserà lui così, così poco. Cazzo, da 32, no? Boh, no, non penso, E così un po', quello è sempre da 23 o da 24, non di più, grazie. Mi controlla bene. Mica già c'è scritto se è da 32 o se è da 34. Quello devi guardare, Graziano, non la ragazza della lama. C'è anche su Amazon, aspetta, guardo se c'è lì, ma già l'ho visto, in offerta lo stesso, aspetta che guardo. Bobo. Bobo, è ben fatto, l'hai lui. No, l'ho cancellato, Gio Mari. Ah, ha capito. Ho capito. Non so, sto cercando lì nel... come si chiama? Nel... la galleria, ma non lo trovo, aspetta. Dove? Ma se non erro è quello col manubrio, mi Gio Mari, come la moto. Anch'io ce l'hai, ce l'ho quello manubrio. E beh, è da 33 quello che c'ho. Capito. Adesso infatti ne ho preso un altro da 44, sempre la stessa marca ed è con manubrio, è difficile di meno, a quel prezzo che ha detto Graziano quella marca non la trovi, sarà magari da 23, ecco da 23, ma quello quando lavora 10 minuti scalda troppo e ti rovinano subito, capito? Mentre invece da quelli a 34, quelli che possono stare tutto il giorno camminando, no? Sempre camminando, no? Non succede niente, capito? Sai cos'è, Gio Mari? È quello che lo sto dicendo a Graziano. Mi sembra strano, 72 o 72, non dire che quello da 20 o da 23. Cazzo, no, non trovi da nessuna parte a quel prezzo, nemmeno qua. Oh, assolutamente, è da 23, vabbè, quel prezzo va bene, ma da 32 no, a quel prezzo non lo trovi, Oh, quel tipo di cespugliatore no. Lo so, se una cosa buona, è come tutte le cose, dai, è inutile. C'era uno vicino a casa, un 50, un 52 mi sa, ma sai, è micidiale. Ehi, quello a 52, quello è buono, cazzo. Quello è cazzo, super professionale, quello tutto il giorno può stare cambiato. Oh, si l'ha presa da solo, capito? Ma cosa, io ne ho uno da 44, ma è una meraviglia, Può stare tutto il giorno camminando, non si ferma mai. E quello taglia, perché gira parecchio, capito? Sì, beh, certo. Grazie, cercaglielo tu. Sto guardando, ne ho trovato uno da Mazzoni, mi pare preciso. Se da 23, da 23, da 32, da 52, e quello lì devi guardare, non la larghezza della lama, il motore devi pensare. Da Amazoni ce n'è, da 166,25, da 99,90 euro. Poi c'è da 187 euro, 149 euro, 129 euro. E bisogna pure elettrico, poi ci sono anche i che si specie di passeggini, Italia Erba, che fanno un passeggino. Ehi, ma quella stupio interessa, capito? Elettrico, non puoi stare con l'infine in mezzo a ricatto, cioè basta all'altra, no, andava bene. Il cespugliatore proprio non va bene elettrico, vai. Capito? Ecco, magari se io penso solo va bene, ma se devi girare dagli alberi eccetera, non va bene elettrico per il capo, capito? E per cui a scoppio è l'unica soluzione quello lì. E poi vedere la cilindrata, se da 23 o da 33 o da 44 eccetera eccetera, quello che contano. Aspetta, sto guardando se lo trovo, velocità, rotazione. Poi devo guardare anche la marca. Allora, ben scritto Gizu, quello da 119. Motore a scoppio, due tempi, da 25.4 cc. Gizu. Ciao Mari. Com'è? Questo da 119 euro. C'è scritto, motore a scoppio, due tempi da 25.4 cc. No, non è quello, no. Oh, da 25, non va bene, è troppo piccolo quello lì, dai. E quello che potrebbe andare bene sempre da 34-32, allora quelli vanno bene. Azzetta di giudizio. Alpina 16 del spugliatore bianco. Aspetta, leggo questo, colore bianco. Non te. Ciao Mari. Ciao Mari. Yeah. Allora, il spugliatore Alpina B42 è alimentato da un motore a scoppio a due tempi, da 42,7 cc, questo è un 42,7, 42,43. E quanto costa quello? Ave 100, questo viene 100, scontato, allora... questo articolo Alpina del cespugliatore viene... tramite Amazon, venduto da Amazon, 166,25 centesimi, spedizione 3,99 euro, venduto da Amazon. Amazon, ho capito, sta dicendo, ma con manubrio è? Questo no, ma c'è anche col manubrio, allora col manubrio costa... nuovo del cespugliatore, col manubrio costa 135,99, guardo questo, sempre Alpina, ami. E guarda quello, e vedo un po', e me lo mandi dopo. Non ci riesco, ci provo se ci riesco a mandartelo, aspetta. Allora, 135,99. Aspetta. C'è anche la, entrambi con la maschera e gli accessori, con la maschera e gli accessori costa 150,9 centesimi. E va, fammelo vedere, dai, che lo voglio vedere. Aspetta, sto guardando che cilindrata è, no. Cilindrata motore 52. Quella è già... È già professionale, capito? Quello mi interessa, Aspetta, lo dica mia figliola, se vi ridisce a mandarti io non vi ridisce, aspetta. È sempre che sia con manubrio però, Con il manubrio, è rosso. Dai. Cioè Mari, mi te l'ho mandato. Mi guardalo. Qua ci sono anche gli accessori. Luca Malicu. Illu! Mi l'ho mandato anche a te! Guardatelo. Sì, aspetta. E beh, grazie. E beh, visto là. Luca. Allora, ah, è così, con la cinghia, togo, togo, 135 euro, che marca è? 55 cc, ma bisogna avere 100 pipetti di questa taglia erba. È perché non li trovi, sì che li trovi, c'è anche scritto tramite Amazon, anche i pezzi ci sono. E poi i pezzi ragazzi burinocchi, incassiati il rivenditore, anche alle punti da Pinuccio Sanna li trovi. Ma oh grazie, ma questo non è alpino però. Eia alpina, è da tramite Amazon. No, già va bene, no, va bene. La fuglia. Va benissimo così quello lì. È vero, però c'hai un motore, grazie a Dio, capite? Non sta a pigliare questi motorini così piccolini, che prima o poi ce lo fino a un casino, capito? Perché bisogna, devi lavorare 10 minuti per lasciare raffreddare, invece quelli là possono stare tutto il giorno lavorando, non succede niente, capito? Guarda che quello che ha usato mia figlia, l'ha usato quasi tutta la di sabato e quasi tutta la di domenica. Sì, ogni mezz'oretta così si fermava, gli aggiungevo la miscela, si fermava 10 minuti, un quarto d'ora, si basava un po' e poi riprendeva, ma ha fatto in due di... adesso in una lì gli ha ripassato tutta. È già è veloce, e non è caduto proprio banuta, che io gli ha dato, ve lo controllavo, capito? E già sono buoni, Marco Alpina già sono buoni. Me ne ha mandato anche uno Luca, da Amazon, colore arancione, uguale a quello. Quello che mi ha mandato Luca costa di più. Ed è un 52 lo stesso. Sono come me, ma non parlano con te, sono come te. Luca, l'hai visto? Danubrio, l'ho visto, bello, bello. Ma ce n'è anche un altro, che costa quasi 150, è uguale arancione. Ed è bello lo stesso, il motore è sempre 52. Ho capito. Aspetta questo, aspetta. Arrivato ti. Aspetta, c'ho silenzioso, non lo sento, aspetta. Ehi, guarda, questo è arancione. Costa 148. No, mi lascio quelle di ieri, ma qui si dice. Bello anche questo. Professionale, 550, bello, bello. Il motore è sempre 52, è quello, E viaggia, taglia? Beh, è più grosso il motore, e poi sta tutta la via, andando pure senza fermarsi, capito? Ma questo qua che marca è? Non c'è la marca. True Shopping, 9 cespugliatore, taglia bordo, cc, 2,2 cavalli, 3 hp, True Shopping, True. E l'altra è Alpina, la marca. Poi ci sono tante marche, vedi qua ce ne sono altri. Questo si chiama One, quest'altro Valex, Taculife, Alpina, vedi, Sbaraglia, un bel di marche ci sono. Già ho visto, bello, bello. Però io ho il classico, io preferisco il classico. Vabbè, l'umarubio è uno, se non rubo, se rubia normale, senza l'umarubio, il marubio già è comodo, va? A che lo mantiene in tutte e due mani, tipo, ieri l'ho visto anche con le ruote di bicicletta, come quel prototipo che ti avevo mandato l'altra volta, chissà femmina che l'ira da lì, va via a ruggire la bicicletta. cazzo c'è che tu gusta? Fatto proprio dalla fabbrica. Quasi 400 euro. Grazie. Quello con Marubio, la fuori più bene ti ho detto. La fuori più bene, c'ha la cicchia, te lo vecchi e sarà ancora la cicchia, eh? Però con le mani, la fuori bene, ma è leggero. Metti invece tu via, senza il manubrio, lavori più di più, capito? Metti con due mani, lavori più bene, più maneggevole. Tu non l'hai provato, se lo provi mi dai ragione, c'hai. Perché ce l'ho, quello manubrio, senza manubrio ce l'ho io. Ma io preferisco più con manubrio perché lavori più bene con due mani, capito? Lavori più bene e non senti il peso come quando ce l'hai senza manubrio, capito? Già lo so, il peso ce l'hai suddiviso, lo so. Ieri ho visto anche quello che sembra una carrozzella, con le ruote grandi come la bicicletta. Chi ti l'avevi mandato una busta, un prototipo? Lo sai che li fanno, ma ho guardato il prezzo e costa 350 euro. Sì, ci sono i tanti tipi, vai, sia normale che quelli... Già l'ho visto anch'io quello lì. Ce ne sono i tanti tipi, però bisogna anche trovare la marca buona, capito? A modo che tu i pezzi non ci sono problemi, capito? Perché certi pezzi si trovano anche gli altri pezzi magari che vanno bene, però non sono pezzi originali, sai come può succedere, certe volte magari un pezzo non va bene, lo devi mettere a posto, lo devi modificare, capito? Ehi, Michela, il suocero di mia figlia, fare un passeggino e poi ne ha uno che sembra una motozappa, invece è un tagliaerba, è tipo la motozappa, invece è un tagliaerba, la terra non la tocca, taglia solo l'erba, proprio a raso terra, e sembra una motozappa, e non è una motozappa, è un tagliaerba. E perché c'è il regolatore, capito? Perché se no c'è il regolatore, l'erba tocca in terra e lavora male, invece c'è un regolatore in modo che quando taglia non tocchi la terra, capito? Se tu guardi bene, infatti c'è un regolatore, o c'hanno una ruota piccolina pure, capito? Oppure c'hanno un ferro lungo e piegato, capito? Per non toccare la terra. Infatti uno va la ruota da Rizzo, perché lui fa questi lavori di giardinaggio, è un'impresa di pulizia, c'hanno il suocero, e poi si di tutto. E di quella attrezzatura ne ha parecchia, io l'ho visto in campagna da lui, c'è un sacco di attrezzatura di macchinari a tagliare l'erba, va pure lì da gli fari un trattorino, tutti siedi, cammini, un impasto taglia l'erba, ed è un trattorino, beh, un volano sotto. E quello lo usa per il prato inglese, tutti i posi e i cammini, passeggeri e due travaglietti. Quello vanno bene magari dove ci sono alberi più alti, capito? E lavori bene, ma se sono alberi bassi non va bene, capito? Ecco il fatto, ce ne sono, quando una cosa comunque se serve, bisogna prendere una cosa buona, è inutile prendere una cosa che non va bene, ecco. Se dovessi, ma io ne avevo uno a 23, ma cosa cazzo, l'avevo lappato, cazzo, due o tre mesi la mia, mi l'avevo lappato a chi si imballava, si bloccava, si può immaginare, da 30 lui sopra vanno più bene, quelli sono cespugliature, capito? Che fanno, tutti possono stare ore e ore camminando, non si fermano, capito? Perché sono fatti apposta sperazzolata, capito? Mica è quello che c'avevo, ce l'avevo più di 10 anni, mi era minoretto. A voglia la tagliato erba, in campagna anche altri lavori che mi uscivano, andavo e me li facevo con quello che mai facciato questo delinquente della Vudivuti. Allora sai qua, e l'ho fatto lavorare a vino, mi disse decisamente, ha travagliato un bel, e è venuto un mappa a arruinarmi io. Animale, già. Purtroppo sì. Ma, Ollu. Giomari. Non ti ho mandato io, guarda. Come non mi ha mandato niente? Chi è che te l'ho mandato? Come no? No, Giomari, niente, no. Ciao, Graziano, Cristo, un amico, Luca, in corpo, Marina, mio cugino. Tu non ci sei, non mi ha mandato niente. Controlla bene. Se manda la lumaca, grazia. Un po' lontanuccio da qua. No, io ci delusore, va. Magari ci mi ha mandato un pezzo di caffè di una di questa casa. Adesso se esci lo stesso di qualcuno la truppa, perché è bagnato. Ma domani mattina già la truppa qualche luna. Ci esci verso le 7, là, anche prima. Come si dice? Io dobbiamo partire alle 4:30. Aspetta un attimo. Fai che alle 10 c'è la Massassari. Aspetta un attimo. Andiamo su ginocchio. Adesso sì, Giomari, riesci a vedere. Questo è bello massiccio questo qua, Ma tu questo è Giomari? Io c'ho quello lì, me lo faccio oggi. Cos'è? Che marca è? Alpino, Alpino. Ah, non capito. Va bene. Quello è un 52. Bello è, infatti. È bello. No, 32, non 52, 32. Guarda bene, già c'è scritto. Aspetta, vediamo. Giomari, c'è scritto, non si vede bene. Decispoliatore a scoppio, sì, 32, e viaggia? Cazzo, lo credo, è un bombone, è bello veramente, e questo almeno sei tranquillo che ti ci ritrovi dappertutto, capito? Perché è una marca molto stata dappertutto, anche all'estero, in Germania, capito? Per cui i pezzi ci sono, ma vanno bene, capito? Vanno bene, è motori che non finiscono mai, ecco. Giomari, vabbè, ma è meglio un 52, cosa ne dici, o no? Quello 52 pesa, ragazzo, è troppo grosso, capito? Adesso, magari, tu che sei giovane, magari riesci a resistere, magari, per me non andrebbe bene, che è troppo pesante, capito? Va bene a 32, a full, poi c'è la cinghia, tu metti a tracolla, con due mani da fuori, capito? Ma cioè, te lo giochi con le braccia, capito? Sì, però, come si dice? Io intendo di cilindrata, non di peso, un 52 di cilindrata, più potente. E costa anche di più pure, capito? Per cui... per me va bene questo, capito? Per me va benissimo, io a Guglia, è un bombo. È bello robusto, ecco. Aspetta un attimo, Giovanni, che ti ascoltano un messaggio di un amico. Come? Grazie. Aspetta un attimo. Eccomi qua. No, Giovanni, un amico mi ha mandato un messaggio per domani mattina. Alle 4:30 appuntamento, solo che devo salire prima. Ah, è un casino, lo sgabuzzino, devo levarne la moto, prendermi gli stivali, un casino, gioco la giubbo fin in fondo, ho detto ormai a lumacchia non ci andrò per un bel po', devo levarne tutto, mamma, bidone della tinta, un casino. Posso immaginare. Vabbè, dai, così mi porto una passeggiata, da una valle dura dobbiamo scendere, già non è lontano, dai. C'è qualcuno a baracchino, l'ho attaccato di nuovo, al 10. Gufetta! Ma dove sei? A casa tu o tu sei? No, qua vicino a te. È attaccato là la 27. Cosa, Giovanni? Attaccato ce l'hai. Sì, aspetta. Giovanni, ci sei? dimmi tu. Esco male lì, dai, esco male in quel baracchino. Ma tu senti che c'è Torre sul 23, infatti. Pensavo che entrassi sul 23. Aspetta che passo lì, dai, vediamo un po' come mi ascoltate. Siamo sul 23, dai. È meglio, Mari. Bravo sei, siamo passati sul 23, sono Luca, Torre. Stavo facendo cosa, vabbè, pazienza. Vai là se sei là. Accendila. Accenda adesso, vai, tranquillo. Che sei una guffetta, ecco perché, ti abbiamo chiamato più volte, non rispondevi, sempre di cosa, sempre in buttetti, sì. Al telefono sta squillando. Giomari, sempre in buttendi hai chiesto, boh. Allora, a voi si lamenta. Chi ti fa di male chi, ci fa di male chi tacciano. Un po' qua se ti mentendi. E poi si lamenta la glicemia a 600. Per carità. Ho sentito come si chiama, le Archimede, boh, strano, eh. È bello della frequenza, boh. Chissà se il buio, ma forse sta lavorando, forse sta lavorando, e il sacco magari non si fa sentire. Ma ora mi ha mandato un messaggio, vuol dire a cucchiaio per negare cosa? E chi te l'ha mandato? Lui, quell'altro decespugliatore me l'ha mandato lui, poco fa, quello che ti ho mandato. Mi c'ho un altro messaggio, esci a vedere. Me ne ha mandato un altro di decespugliatore, e preso non venne a farlo, riesci a vedere? Vedi bene da un disgraziato, non è così. Chi su? Fa mezza ai scriventi o mandate fotografie, però non si fa sentire di lui. Mi ha mandato quello che ti ho detto io, adesso te lo mando, c'è anche il prezzo, con il manubio, quello ti ho detto da 66. Allora, aspetta. Allora. Mi stavo mettendo la. Come si dice? La roba la nuova dentro la busta, perché ti esce del cespugliatore con il prezzo. Luca, l'ho mandato anche a te, clicca sulla scritta che ti esce il prezzo. Sì, grazie, adesso sta caricando, scarico. Stasera mi sono messo a giocare a un gioco, tutto ad un tratto mi si è fatto lo schermo nero, se accendiamo solo i tastini, quello per tornare indietro, quello per chiudere le pagine. E l'ho dovuto aprire, il mio non è si apre così, no. Devi praticamente levarne il coso da dietro, che è incollato col biadesivo, ma non male che l'ho staccato la base al scatto, l'ho richiuso e è ripartito. Mai fatto un problema del genere. Sarà della batteria, guarda! Allora, totale articolo costa 66, spedizione 13 euro, totale ordine 79 euro. Qua, allora, arrivo entro il prossimo giovedì, ti arriva, hai capito? Mi sa che per l'ultimo, con la PayPal, l'hai guardato Giomari? Aspetta, mi sono lasciato un attimino, te lo guardo. Clicca sulla scritta però che ti appare il prezzo. Qual è questo, il 135? No, costa 66 euro, spedizione 13 euro, totale dell'ordine 79 euro. In arrivo a giovedì prossimo. Vai. Spedizione rapida 11 euro, paghi di spedizione rapida, e viene totale ordine 79 euro. Quanto è 79 euro? Ebbene, hai guardato. Quanto è che costa 79? 79 è quello che ti stavo dicendo stamattina, mi vi la ginocchio. Allora costa, lui costa 66, costa 13 euro di spedizione, totale dell'ordine 79 euro, spedizione rapida 11 euro. L'ordine oggi e ti arriva giovedì prossimo. Ho capito, già è buono il prezzo, dai. Ed è con un manubio, l'hai visto? No, dopo lo controllo, sono in cameretta adesso. Guarda, devi cliccare sulla scritta che c'è, così ti appare il prezzo. È tutto un rischio, no? Vedi, c'è scritto adesso, scorri per pagare, ma non lo faccio perché ancora no, non lo devo ordinare. A fine mese lo ordino. Ho capito. Gio Maria ha visto là. Gliel'ho mandato, articoli nel carrello. Sì, non mi è arrivata a me. Beh. Guarda che te l'ho mandata, l'altro dovrà mandare. Se manda sullo scasso però, Su WhatsApp. Guarda che te l'ho mandato. Aspetta, lo guardo. Tocca col dito, se ingrandiscilo e c'è il prezzo, 66 euro. Vabbè, ma sempre alpine, non ti si chiama. Alpine, allora mi ha ridotti petrol streamer grass, a detta di Luigi. Non mi piace a me, dice. Troppo piccolo quello lì, grazie. Figlia, se l'ho preso per la 33 su che meglio. Solo uno ne è avanzato, c'è anche scritto. Cos'è? Mi è rimasto solo uno, ne resta solo uno. Ma non mi fa a me quello lì, non mi piace. Spedizione rapida 11 euro. No. Mica precisa all'altro, a chi non ti piace? Tu confrontami con l'altro a vedere un po' se sono uguali. Non ringraziare, per carità. Già li conosco come sono. E la piglia deve pigliare buono, no, pigliamo già i biglietti, anche se spendi 50 euro in più, che se ne frega, ma c'hai un attrezzo come si deve. Sarà. Tu da 32 sopra, sono tutti buoni, capito? La presa di buon carta. Però da 3 su sono motori che sono buonissimi, capito? Ecco com'è. E fino a dire quel manubrio un altro viene nel bigliare. Che da poi ti rendi conto che differenza c'è da uno all'altro. Grazie, ce l'ho visto, dai. Bello, anche quello lì va bene. Però dipende sempre, come si dice, dipende sempre da... se compri una cosa del genere, se trovi i pezzi. Una fitta ti dura quanto è buono. Oh, questo che mi ha mandato Graziano, questo da Wish sicuramente. Che costa 66 euro, costava 625 euro, mi pare strano, comunque vabbè. No, il venditore non è Wish, il venditore si chiama Telememmo Shoppu, si chiama Mano Mano. E questo qua ci mette 2 mesi ad arrivare. No, giovedì prossimo si arriva. Sì, già serve sempre un decespugliatore, capito? Guarda che se vuoi ci cacca il travaglio, andati non vai, ma se ti risecchi tu a tagliare erba e già ne trovi. Mio genero, il marito di mia figlia, non se li fa questi lavori. Facili, vasi. C'è anche pozzi fissimi da andare a tagliare l'erba, anche al tirassegno va a tagliare l'erba, dove vai a sparare, ci sono dei giardini e lui va, ogni tanto lo chiamano, vai a tagliare l'erba, ce l'ha fisso lì. Ho capito, ho capito. Vabbè, comunque, già... Vediamo, dai. Ti devi musicare. Io, quando lavoravo, ne avevo anche gente che andava a tagliare l'erba, anche in campagna, anche al ginecologo, come ti diavolo si chiamava? Quel ginecologo robusto che era al policlinico, adesso non mi viene il nome. Io a quelli gli ho tagliato l'erba della campagna, gli ho fatto le finestre della casa, gli ho fatto i travagli, mi ha dato i buoni di là. Ehi! Beh, certo. Però, vabbè, il discorso è sempre una cosa di marca, così si trovano i pezzi sicuri, perché altrimenti vai a comprare tipo quelle motoseghe che vendono su eBay, non trovi i pezzi. Io ne ho proprio preso una, poi l'ho venduta, perché tanto non me ne facevo niente, l'ho buttata lì nello sgabuzzino. Me l'ho venduta, però tagliava che è una meraviglia, tu conti, io ho tagliato un tavolone di quelli che servono per fare il soppalco. Anche io ce l'avevo e non me l'ho venduta, era sempre ferma, la giudrata da una borsa, un'oretta e buh, neanche un'oretta, e cosa me ne faccia, era in bora, in garage, prima a destra, poi a sinistra. Andava a meravigliare se la biglia è luce, tanta cosa ammissibile la moto lì. In campagna gli alberi sono portati, a canta cresci sarà giù molto. Beh, certo. E chi lo sa, ma i campi più di me? Sì, e mi ha da puttà, ma cosa si dice di me? Cazzo, yeah. Avanti, non fate i campi rimani, a rilarga giovani. Lo so. Bella Giomari, Giomari è andata a fumarmi. Giomari mi ha dato ad andare a piccarsi il picco. E lui? Dunque, mi ha giusto tirato a scorrere per acquistare. Mi ha ricevuto un messaggio della PayPal, cioè di chi su Memo, insufficiente il credito. Cazzo, no, capito, no. Allora, ho fatto una prova, l'ordine, l'ordinato, poi devi scorrere per pagare, non paga, dopo i minuti che aggiusco, pagato, dimmi, mi arrivi un messaggio, insufficiente dalla PayPal. Adesso... lo volevo prendere un, non ci sa mai, messi qualche lavoretto e me lo faccio. C'è quello vicino a casa che si fa pagare 10 euro a ora. E mio genero lo stesso, non ha giù un prezzo. Guarda che io me ne facevo un casino di lavori. Poi basta che spargi la voce in giro e ti chiama un belietti e... A me mia figliola mi aveva visto pure in Natale con pizza, allora c'era gente che mi telefonava qua e Paletta prendeva le telefonate, poi la sera quando rientravo li chiamavo io o no e mi mettevo d'accordo. Sì, poi c'è quello che prende 15, 20, dipende da se mette la benzina, dipende dal posto, se è lontano. Allora, me l'ho detto da poco, stamattina che questa signora stava cercando qualcuno di tagliarsi l'erba. E ci ha chiamato questo tipo, un paio d'ore gli ha dato 150 euro. Ehi, mica di dinai, in questo periodo ci fai dall'erba, ti rifanno. Io l'altro giorno non l'ho letto su internet. Cerca di persona per tagliare l'erba in campagna. E beh, è una femmina, Ida. Ho capito. E io se no mi tra un po' mangio e poi faccio accompagnare. C'ho tua madre non me ne piso. Poi lavori, ti metti anche su questo busta, taglio erba, eccetera, eccetera. La cantaressa già ti chiamano, hai compreso. Poi basta che spargi anche la voce tu tra amici tuoi, nella zona dove sei tu. E la gente si dice via, ti chiama, non ti preoccupare. E come ti capito, chi da bassona non va nessuna bianchina alla casa. Secca, già lo so, grazie, già lo so. Io me l'ho fatto bene con quel vecchio impugnatore che mi ha distrutto vicino imbecille quando lavoravo. A voglia, anche vicino in campagna, la Ruini, non mi chiamava. Cazzo, raccio di palla, si chiama, anche qui. Ma per me era un divertimento. Ma pari così, dipende dalle ore che fa. A me è capitato una volta, mi hanno chiamato, ma tanti anni fa, a fare la ferrovia lì, dove passa il treno. E mi ha giubato tu, ribalti 50 euro, già, so che mi da casa la vita, è china, la schiena mia non serviva più. Male, ma 50 euro non ne aveva fatto tu, sicuro gli posso, ma 50 euro. Vabbè, ci vuoi essere 3 ore e mi bago, non hai compreso. Eppure ho fatto quelle ore lì e purtroppo, come si dice, questa qua tu mi faceva fare più giornate e poi ma un giorno solo e basta, ma un culo grazie a, perché dovevi camminare a bordo, alle ferrovie, no? Lì da lei a pulire lì, ha giocato chilometri e chilometri a piedi. Lungo la ferrovia a tagliare le valigie, lo so. No, tu devi contrattare prima di andare a fare i travagli, lì che io voglio tosta ora. Tosta mi dai, se vuole affarlo io poi prendo tosta, se no ci arrivi io. E vado a uscire, io prendo tosta ora. Mi dica quante ore vuole fare, io glielo faccio, se poi lo finisco o non lo finisco, quello dipende da lì. E l'orario se ce la faccio a finirlo, se ci vuole più orario, che vuole terminarlo, io le ore in più me le deve pagare. Tu vedi, vai già in faccia. Se la da me così e se non si rubarmi. Vabbè, purtroppo. Ero anche giovincello, ero più giovincello, ma la schiena a terra me l'ha buttata. Quando senti tradizio, tracca a me. Il primo periodo me ne scudi a terra la china arrivata, ma dopo che ci ho fatto l'abitudine, ma a me era un gioco, era come ti chiedo passi i geni e tagli il mio, vabbè, eppure non mi stancavo io ultimamente, in campagna ci mettevo sempre 2 giorni, gli ultimi anni mi la basia una vita, e perché a che ora mai avevi già la mano? Ti credo. Così è. Vabbè. Comunque. Grazie. Sicuri travaglia e così. Io guarda, travaglia pure a 30 euro in cantina, di 40. 50.000 franchi, 40.000 franchi. 30, 25.000 franchi. Allora, sicuri travaglia, più giovane, non avevo problemi di schiena, perché ballacche. Adesso, Anche io quando ero giovane già ne ho fatto travagli, pure quando non ero giovane già ne ho fatto lavori a pochi di là, o con la scusa che un amico ho visto che io li prendevi di meno. E ho fatto questa casa che ho fatto a bancale a un amico mio, Ciccio mi dà già di 4 euro alla di, però gliel'ho voluto fare io perché era un amico, era più che altro a dargli una mano, anche se gliel'ho fatto io il lavoro, capito? Lui mi aiutava e gli disse vabbè, è stato un gioco di nonnagina, armato di 4 euro alla di mi dà, e lui già ti aiuto io e vabbè, e l'andassi a me, e io l'ho fatto perché era un amico. Se no, se noi eravamo che non conosceva, non ne aveva fatto, no? Certo. Mi ha calato il pollo, tra un po' chiama Maria che sta riposando, che la rimanza lunghissima in terra, è andata al volo, è andata a farsi i capelli, non so per farlo qua, sono ancora 10 minuti, grazie a tu lo stesso, tra un po' chiudi, vai a mangiare. No, adesso chiudo, che mi posso morire insulina. Ciao, sentiamo a domani, Gian Maria si è assentato. Ciao Gian Maria, se ci senti, a domani se coincide. Ciao Luca e ciao chi è l'ascolto. Ciao Luca. Ciao, grazie, ciao, sono da Paoletta, da Marina Drommi. A domani, ciao anche a Gian Maria e ciao agli ascoltori, ciao. Ciao, ciao. Avanti, chi è? Non iniziare a fare queste cose, che se no prendo e chiudo tutto, eh.